Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Gli anni che seguirono furono per Ario molto diversi. Gli piacevano adesso le giornate di vento, quando il mare si fa tutto blu e lo corrono lunghe creste bianche. Di notte, allorché udiva alzarsi la bora e le prime raffiche squassavano il pontone, il cuore gli dava un balzo. Mentre il vento fischiava e ululava, sempre più alto, ora sferzando e ora battendosi come una massa compatta, e gli ormeggi si tendevano cigolando, egli ascoltava, trepidante, le ondate e gli spruzzi che schiaffeggiavano le pareti sino al tetto, percuotendo le finestre che vibravano ininterrottamente. Si ricordava che un tempo, da piccolo, quell'infuriare gli metteva sgomento e un brivido freddo. S'accucciava allora nel suo letto per goderne meglio il tepore e talvolta ritraeva anche il capo sotto le coperte. Lì si sentiva bene, al caldo, al sicuro. Non udiva più quegli ululati e anche il pontone pareva beccheggiasse di meno. Adesso invece, sin dal primo sibilo, sin dalla prima ondata, era come se qualcosa di ugualmente impetuoso rispondesse dentro di lui. Tendeva l'orecchio e percepiva forti i battiti del cuore. Una gioia selvaggia che riusciva appena a trattenere gli cantava nell'anima. Gli sembrava di trovarsi come suo padre da giovane quando navigava. Sì, era stato marinaio, doveva conoscere tutti i mari del mondo, era venuto a sapere anche questo, in mezzo all'Atlantico, in tempesta. Era bello il mattino seguente, infilato sotto la giacca un maglione da mozzo, calcato il berretto sugli occhi, salire la scaletta e giungere sul tetto, come uno stromo, barcollando sotto le raffiche. Lì sopra si fermava in quella specie di terrazzo che dava sul mandracchio, al centro della balaustra, sotto il trinchetto che sibilava con tutte le sartie. Era un timoniere e un capitano. Manovrava la ruota del timone, scrutava il mare dinanzi a sé, gridava ordine all'equipaggio, sopra e sotto coperta, mentre la nave, percossa e scossa da ogni lato, invasa dagli spruzzi e dalle ondate, tutta viva e sonora nella furia del vento, minacciava d'attimo in attimo di perdersi e naufragare. Ogni tanto gettava un'occhiata a sinistra, ove procedeva la nave comandata da Berto. In certi istanti, quando l'infuriare del tempo sbatteva come gusci i due scafi vicini, entrambi dovevano ricorrere a tutta la propria perizia, a tutto il proprio sangue freddo e evitare una collisione. Arrossate, rigide dal gelo, le mani reggevano il timone sino all'ultimo, sinché la nave era giunta in salvo. Accadde in quegli anni, durante un'ondata di gelo che restò memorabile, che l'acqua ghiacciasse nel porto, intorno ai moli, tutto intorno ai velieri e ai vapori, sulle boe e sui gavitelli. Grossi lastroni di ghiaccio, di un colore spento, tra grigiastro e verdino, oscillavano qua e là anche nel mezzo dei bacini, e i rimorchiatori, unici a muoversi in quei giorni, li urtavano e li fendevano. Ma ciò che rendeva fantastico il panorama del porto erano le incrostazioni di ghiaccio sui casseri, sui bompressi, sulle alberature e sul sartiame dei velieri, sui castelli, sui ponti, sui fumaioli dei piroscafi. In una sola notte, gli spruzzi, sollevati altissimi dal vento, gelando istantaneamente, avevano creato da ogni parte quelle strambe e innumerevoli colate bianche. Ario e Berto navigarono quei giorni al comando ognuno della propria nave verso il polo. Avevano assunto entrambi il titolo di ammiraglio. Imbacuccati, in modo da avere scoperti soltanto gli occhi, il naso e la bocca, resistevano impavidi sulla plancia sotto le raffiche, malgrado i richiami che si udivano di tratto in tratto dalle cucine dei due pontoni. Dinanzi a loro All'altro capo della sacchetta, il mare continuava a battersi sulle rive, sperdendosi ogni volta in mille spruzzi che ricadendo gelavano e formavano un campo di ghiaccio tutto sconvolto, come le onde da cui era nato. Era la banchisa. Verso quella procedevano, a fianco, le due navi ammiraglie. Nel mandracchio, sulle tolde bianche dei velieri e sui ponti tutti arabeschi di ghiaccio dei vapori, non un'anima viva e deserte, come distese polari, le rive, sin dove arrivava lo sguardo. Un'unica voce, l'ululato incessante del vento e i suoi sibili. Dirigendo la propria nave, Ario guardava di tanto in tanto verso il centro del mandracchio. Lì, un piccolo rimorchiatore dal fumaiolo grosso e alto che le incrostazioni di ghiaccio avevano ingigantito accrescendo la sua sproporzione rispetto all'esiguità dello scafo, alzava azzurrognola, tenue ma viva in quel deserto, una fumata. Egli la osservava sempre più a lungo. Gli piaceva immaginare, con un brivido di sgomento, d'essere al polo, assediato con la sua nave dai ghiacci e senza viveri. Ed ecco, gli appariva all'orizzonte quella fumata. Era la salvezza, ma poter giungere sin là. Più tardi, in cucina, mentre la mamma gli scodellava la minestra, egli si sentiva emozionato come fosse finalmente arrivato, dopo una traversata tra picchi e crepacci, alla capanna da cui avevano veduto levarsi quel fumo. Era affranto, gelato, con una fame da lupo, ma era salvo. L'unico superstite, grazie al proprio animo impavido di tutta la spedizione. E ora, in quella capanna miracolosamente calda e ben fornita, attrezzata per svernare, un gruppo di esploratori, giunti in quelle latitudini prima di lui, lo ospitava con gioia. «Che fame!» esclamava la mamma. «Come se non mangiassi da 3 giorni!» Mangiava, difatti, con una voracità mai conosciuta, nuova, come l'impeto che gli faceva immaginare e vivere quelle avventure. D'estate, quando il mare era sempre calmo, Ario e Berto, lasciati i pontoni, giravano invece col caicio. Esploravano ogni specchio d'acqua e ogni angolo del mandracchio, dalla lanterna alla pescheria, vogando fra detriti di carbone, un velo nero che appannava l'acqua, e limoni sfatti, bucce di anguria, cipolle e grandi chiazze iridescenti di petrolio. Talora si avvicinavano a qualcuna di quelle enormi moli in disarmo, sino ad entrare con un brivido freddo nell'ombra. Un abisso di acque nere che si allargava lì sotto, e ogni volta Ario sentiva crescere, assieme a uno sgomento che lo prendeva al cuore, un'attrazione quasi mostruosa, per cui non riusciva a trattenersi dal guardare quel baratro. Spesso si distinguevano, in quella trasparenza gelida, le immense eliche immote, ma Ario non tollerava di guardarle a lungo, senza che gli si intirizzisse la cute. «Andiamo», mormorava in fretta, «esploriamo un po' altrove». Facevano il bagno, di solito, sui moli della lanterna, fuori dal mandracchio, verso il mare aperto. Si divertivano e si accanivano a esercitarsi nel nuoto. Ario non superava Berto nella resistenza, ma era più veloce di lui, e ciò lo appagava. Egli era soddisfatto, adesso, che Berto venisse sempre con lui. I ragazzini della caserma, come avevano preso a chiamare l'edificio del Reale Circolo Nautico, che sorgeva tutto in muratura sulla cima del molo ove erano attraccate le canottiere, erano stati, dopo alcuni anni di amicizia, abbandonati completamente da Berto, che per di più non tralasciava nessuna occasione di stuzzicarli e sprezzarli. «Non sapete nuotare!» gridava. «Sì che lo sappiamo, sì sì!» urlavano tutti assieme, passando come cagnolini, con un gran sbattere di spume sotto i suoi occhi. Berto torceva il muso. «Non avete stile! Guardate noi!» Veniva talvolta con loro anche Lidia, che si divertiva come un maschio. E come un maschio la facevano vogare. Si recavano tutti e tre sopra un molo in rovina, al di là della lanterna, ove c'era uno squero mezzo abbandonato per navi in demolizione. Pareva, stando lì, d'essere in campagna. Alla radice del molo si allargava un prato di erbe alte e selvagge, con cumuli sparsi di ferrame e altri rottami d'ogni genere, e si udivano i grilli. Sulla diga, diroccata qua e là, tanto da uscire dal mare a mozziconi, cresceva pure, fra pietra e pietra, l'erba, ma più bassa e lucida, a piccoli cespi, e dappertutto correvano le lucertole. I ragazzi si fermavano di solito tra il prato e il molo, in un angolo sfondato e cadente della riva, ove la ghiaia e il terriccio, traboccati dalla breccia, avevano finito col formare una piccola spiaggia. Di là passavano a nuoto dall'uno all'altro tratto di molo, sino all'ultimo, ove si ergeva un fanale. Erano isole, e ognuno ne possedeva almeno una. Lunghe lotte e duelli in acqua sorsero per l'isola del fanale, che ognuno voleva per sé, sinché fu deciso che dovesse appartenere ugualmente a tutti. Su quell'isola, un mattino, Lidia venne processata. Stavano tutti e tre distesi lì al sole e ascoltavano ad occhi socchiusi. L'azzurro sterminato del cielo e del mare era abbagliante, lo sciabordio dell'acqua. Quando Berto, levatosi sul gomito, cominciò a dirle: «Da qualche tempo ti si vede gironzolare intorno al circolo nautico. Perché?» Lidia non sollevò neanche il capo. «Non è vero», rispose. «Non ho mai girato intorno al circolo nautico». «Non mentire!» si alzò di colpo la voce di Berto. «Tutti lo sanno, tutti ti hanno veduta». «Sì!» scattò Ario sentendosi infiammare, sebbene non avesse mai visto Lidia nelle vicinanze del circolo, e la guardò minaccioso. «Tutti ti abbiamo veduta! Vai strisciando ogni sera là sotto, come una cagna!» «Che vuoi dire?» si erse sul busto la ragazzina, rispondendo a Berto. «Che desidero andare con Ezio, Gianni e Guido? Con quegli stupidi della caserma? Ma sei pazzo! Non mi è mai importato di stare con loro, neanche quando erano amici tuoi!» «Non fare la scema, lo sai bene quello che vogliamo dire», sibilò Berto. «Strisci là sotto come una cagna, anche Ario ti ha veduta, per farti notare dai viennesi che cenano sul terrazzo». Al reale circolo nautico, un gruppo di soci cenava ogni sera all'aperto, in giacca bianca. Sotto uno sfolgorio di luci li si vedeva sin tardi e si udivano nel silenzio le loro voci e il suono delle stoviglie e dei bicchieri. Nel mandracchio li chiamavano i viennesi, non già perché lo fossero, ma perché in altri tempi quella palazzina era appartenuta a un club frequentato d'estate da un gruppo di signori di Vienna. Ario sapeva, era certo, che Lidia non si era mai fatta vedere lì sotto, ma era appunto questa consapevolezza che lo eccitava, travolgendolo col piacere acro della menzogna, ad accusarla assieme a Berto. «Sì, sì!» gridavano. «Giri lì attorno come una cagna e guardi verso il terrazzo, non negarlo, ti abbiamo spiata!» Seria, Lidia sosteneva quell'assalto. Continuava a negare, un po' pallida. «Confessalo!» gridò d'un tratto Berto. «Tu non sei come noi. A te piacciono le scatole colorate da sigarette e le carte d'argento da cioccolatini, tutte quelle porcherie da signori che si vedono sull'acqua intorno al circolo nautico». «No», ribatte Lidia con gli occhi sfavillanti, «io sono come voi. Sull'acqua mi piacciono le bucce e le cipolle, come sotto i bragozzi». Fu deciso sui due piedi. E Lidia, sebbene fosse più grande di loro, non protestò, sembrò quasi a consentire di processarla. Berto doveva accusarla e Ario fare da testimonio. Entrambi, poi, l'avrebbero giudicata. Lidia si difese fino all'ultimo. Non ammise alcuna delle accuse. «Condannatemi», disse infine fissandoli, «ma sono innocente». Berto e Ario si trassero in disparte. Parlarono a voce bassa, con gli occhi accesi. A un tratto Berto si mosse, fece per raggiungere Lidia, ma Ario lo richiamò, animato. Berto tornò indietro e parlarono ancora. Finalmente egli si avvicinò di nuovo a Lidia. «Verrai spogliata nuda», le annunciò. «E poi?» Lidia, che nell'attesa si era fatta ancora più pallida, ascoltò senza che le si muovesse un muscolo del viso. Sbatté soltanto le ciglia. Infine, sembrò che inghiottisse saliva. «Lascerete?» domandò. «Che mi spogli da sola?» «No, ti spoglieremo noi». Senza attendere altro, le si lanciò addosso, cominciando a denudarla, e tra i denti gridava: «Dovrai stenderti sopra una lamiera rovente per tutto il tempo che piacerà a noi». Ario imitò Berto. Si lanciò contro Lidia. Lo invadeva la furia di fare qualcosa anche lui, di aiutare a spogliarla. In pochi istanti, malmenata, percossa, la bambina giacque a terra, prona. Era seminuda, col costume già stracciato, ma non alzava un lamento. Finirono di spogliarla lì, sulle pietre del molo. Poi, costrettala a stare supina, a guardarla in faccia, presero a schiaffeggiarla e a sputacchiarla in viso. Distesa in quel modo sulle pietre, la bambina li guardava seria, con le mascelle serrate. Li lasciava fare, dominando ogni volta un sussulto, per cui chiudeva un attimo le palpebre e poi li guardava, muta, con due occhi trasfigurati, vivi di una luce strana. Supina e nuda, lì a terra, col corpo abbandonato e i capelli tutti scomposti, appariva più fiera che mai, come un angelo folgorato dall'alto. E Ario si ricordò di un'illustrazione del suo libro di scuola che lo aveva sempre fatto fantasticare. «Cagna, maledetta cagna!» gridava Berto, pestandola coi piedi. Sotto quei colpi, Lidia, sempre muta e socchiudendo le palpebre nei continui sussulti, si limitava a scostare le gambe e le braccia che contrastavano, brune, con la bianchezza di tutto il corpo. A una banchina poco distante, al di là del prato dai cumuli di ferrame, sbandava rugginoso uno scafo in demolizione. Era, ormai, poco più che lo scheletro di un piroscafo che doveva avere fatto infiniti viaggi. Disalberato, senza fumaiolo, anzi privo dei ponti e delle sovrastrutture, aveva qualcosa di misterioso e di cupo, pur nella luce del sole. L'aria, forse, delle navi naufragate. E a Dario piaceva immaginare che fosse naufragato davvero durante un ciclone, venendo ad abbattersi lì, sulle coste di un'isola. Verso quello scafo condussero Lidia, con le mani legate dietro la schiena. L'espiazione cominciava. Dovette entrare per un portello che s'apriva sulla murata a bordo di quel relitto e stendersi prona, nuda come si trovava, sulla lamiera scottante di sole, in un punto che Berto scelse e le indicò. Allontanatisi, prima di scendere dallo scafo, i due ragazzi si voltarono a guardarla. A deriva, ferma nella posizione che le era stata imposta, con tutto il corpo alla lamiera. Ed era strano vedere come il suo dorso risultasse candido, in contrasto col colore bruno delle gambe, delle spalle, delle braccia e con la ruggine dello scafo. Trascorso qualche tempo, risalirono a bordo per osservarla. Era sempre lì, immobile. «Ora cambia posto. Vai più su, dove la lamiera scotta. E voltati. Stenditi sulla schiena», le comandò Berto. Sempre in silenzio e rapida, la bambina obbedì. Dovette mutare posto e stendersi ora prona, ora supina, sul ferro scottante quante volte piacque ai due ragazzi. «Confessi!» le gridò di lontano Berto, quando ella era lì da quasi un'ora. La bambina non rispose e non si mosse. Non piegò neanche il collo. «Ti decidi a confessare?» egli ripeté. «Sinché non confessi, rimarrai là». E voltate le spalle, uscì assieme a Dario. Ritornarono entrambi di lì a poco, dopo che il cannone della lanterna ebbe sparato il colpo di mezzogiorno. «Tu resta qua», disse Berto a Dario non appena furono a bordo. «Ora le parlerò io». E si avviò da solo, serio, ov'era distesa Lidia. Ario non seppe mai quello che Berto le disse, ma tutto si concluse molto rapidamente. Egli era ancora là e guardava davanti a sé verso i cumuli di rottami sparsi per il prato quando udì sulla lamiera, rapidi, i piedi scalzi di Lidia. «Ha confessato, ha detto finalmente tutto», esclamò Berto, prima ancora che Ario si voltasse. «Ci tradiva. Conosce uno di quei signori in giacca bianca e riceveva da lui cioccolatini. Ora è libera, può andare, ma è una sporca traditrice, proprio una cagna, ed ora in poi sapremo come trattarla». Tranquilla e altera, la bambina passò tra loro due e uscì sul prato, col capo eretto sopra il corpo bianco e bruno. Non mostrava rancore e aveva negli occhi un'espressione vaga, lontana. Quel giorno, appena ritornato sul pontone, Ario mangiò con appetito insolito. Sentiva in sé come un impeto nuovo. Avrebbe divorato in pochi momenti il pasto di due marinai. Era animato anche in volto e parlava a sua madre ininterrottamente. La donna lo ascoltava, seguendolo senza sosta con lo sguardo e sollecita a servirlo, come era da qualche tempo. Andavano d'accordo adesso. Ad Ario piaceva soprattutto che ella si occupasse della casa, che stesse molto al focolare. Si alzò da tavola e corse di nuovo all'aperto. Più tardi, tuttavia, mentre era solo sulla zattera d'approdo, dopo aver armato alcune imbarcazioni e ormeggiate altre che rientravano, si sentì insoddisfatto e inquieto. Gli era tornato ero di suo padre e provava, lontano, irragionevole, quasi un rimorso. Gli rimordeva, in certo modo, di averlo quasi dimenticato, di essere contento e di andare d'accordo con la mamma. Cercava di pensare a lui, si imponeva di farlo, ma non vi riusciva. Sentiva in sé qualcosa di altrettanto tenace che gli faceva sfuggire quel pensiero e temeva adesso il suo ritorno. Desiderava, sì, che stesse bene, ma lontano, almeno per il momento. «Speriamo resti lì dov'è», si augurava oscuramente.